E tu che sei? Hello, sei se ne spende? Ehi. Sono Lord. Gianni il Chiaramontese. Perché sto fischiettando? Ah no, perché stavo fischiettando. Ma cioè tu stai innescando, No, adesso no. Dove ti trovi? Punto molto buono, perché? Stai arrivando bene. No, stavo fischiando perché come. No, stavo vedendo un attimino i picchi positivo, positivi che avevo, capito? Però sì. Sei in zona mia, però girando i territori, là. Facendo una passeggiata. Cava Cava e Cava Roger. Sì, questo è un bel microfono questo che sto usando. Io ti ringrazio, bontà tua. Io lo sai che i buoni consiglieri me li tengo stretti, eh. Quindi cosa stai facendo? Solamente un giro così a fare un po' di QSO? Un guardacaccia, sì. All'inizio sente come stai come attacco importante. È possibile che sia un po' la batteria scarica. Batteria del microfono, dai, un amplificato. Baracchino moduli. essere contento. Un po' sono distrutto. Hanno fatto, come si dice, riposo e stanotte non ho dormito. Per fare il fango del letto. Attenzione gente, ci siete? Oh, sembra quello appiccicato, sembra quel microfono a tavola. No, si ti attacco con la tavola, senti il zocco. Questo è il microfono normale della CTE, un microfono che praticamente è quello della LAN 48, che però con l'eco non va bene. Allora, la gain che era di questa radio l'ho messo sulla LAN 48, questo è il CTE, quello normale, quello che conosci tu, della CTE. Infatti non posso tirare perché, non capisco perché non avviti. Pensavo fosse solo il TAN che non avvita la ghiera, invece non avvita neanche in questi. No, non ho avvita, mi sembra che non ho avvitato, te l'avevo detto, Claudio, non ci arrivo a avvitare, mi sembra, no, sbaglio. Mi sembra che non ho avvitato, forse avvitare. Sai che forse non ho avvitato veramente. No, non ho avvita neanche con questo microfono normale, non ho avvita. Ok, dai, buonasera a tutti. Comunque non sentite rumore, non sentite niente, perché il quello altavolo si porta presso tutti i rumori del QRA, capito? Allora, ho attaccato questo qua, se va bene lascio stare questo per modulare. Ogni tanto usiamo anche questo qua. Avanti Antonio Grode, buonasera. Mette al telefono, Claudio. Tu sai che lui è impegnato col telefono. Io vedo come nel radio telefono è il tubo da bui, non lo so. E allora Gianni Chiaramonti, questa modulazione ti piace comunque? Ma perché le dici le balle? Che ogni due portanti si sente lo squillo del telefono che ti stanno telefonando. Tu lo attacchi il telefono perché hai paura che ti chiamino. Vabbè, cosa c'entra questo adesso? Vuoi finire nelle mie cose personali? Io ho letto lo stacco, poi il perché non lo volevo dire, scusa. Sei proprio mazzone, sì. E io ti voglio bene quando mi chiami così. Anch'io ti voglio bene. Sto usando il microfono normale, tu, quello della KB23. Non va bene la modulazione, a me non si sentono rumori, non si sente niente. Beh, sicuramente è più... fai sì che la gente non entri a casa tua, quello non è dubbio, nel senso che davvero scherma, sembra che dal metro in giù non si sente niente, capito? Assolutamente. È più intimo, diciamo, però la modulazione è la tua. Oh. Va bene, avanti Gianni Chiaramonti, mi ascolti. Antonio Grote, quello del CTE è un microfono, è un microfono che adesso non lo fanno più, se non si trova qui, io quelli che sono in seco, tristi, ma tristi veramente. Quando tu mi senti con lo 2001, con questo sto parlando adesso, è un CTE, io lo do per il CTE, capito? Quindi sono micidiali quelli, costavano 12 euro. Microfoni 12 euro, non di più, 12 euro, però sono micidiali quei microfoni, che fanno una radio spettacolare, anche normale. Io faccio adopero, io tutti quei microfoni adopero qua nelle radio, tutti i CTE di quei microfoni. No, è un microfono semplice, normale. Però oggi non si sente, cioè, belli. Un attimino, rimango in ascolto che sto facendo una cosa, sto saldando un PL, sono da voi fra due secondi. Allora Gianni, sì, con la parte mobile sicuramente, Gianni. E non è che mi chiami la moto da casa tua, dalla posizione mia, non è che mi chiami la moto, più o meno siamo lì, dai. Tu ti ricordi che io ti ho ascoltato con l'antenna dentro la casa con quella base magnetica appoggiata sopra il letto? Ti puoi immaginare, la posizione mia sembra che sia nascosta, invece è abbastanza aperta per le zone di Chiaramonti, è molto aperta, capito? Molto aperta. No, ci stanno problemi, ti ascolto a tutti io qua. Qua ascoltiamo a tutti, ci abbiamo questo problema del supermercato e del... neanche del bar vicino, non è che mi dice cosa, ma mi dice che se sentono chiaro quello che dico io, dai, nella cosa, non è che mi hanno detto, no, però me lo dicono, no, forse vado a prendere il caffè e mi dico, ma ti sentivo chiaro chiaro, ti ho parlato con questo cercaio, sentivo solo a te la voce tua chiara che parlavi, ma non è che mi ha detto non modulare, non fare quello, però sai cos'è, a volte c'è niente dentro il bar, nel senso mi scoccia a me, non è che lo posso, non mi dicono niente neanche se, però è una cosa che scoccia a me personalmente, capito? Quest'anno gli ho messo il gas in acciaio, me l'ho procurato di quelli morbidi in acciaio, perché quelli, Claudio, me ne ha tracciato, ti ricordi quella specie di ciclone che aveva fatto quando aveva buttato quell'antenna a valle? Me ne aveva strappato due di quei così in aereo che avevamo messo, proprio strappati e tagliati. Ecco, allora è proprio, come si dice, che non serve, non lo so, io ce li ho anni quei microfoni, quei tiranti, e non è mai successo niente. Va bene, mi sto ascoltando, effettivamente questo microfono, però guarda se mi allontano, vedi, non lo tenere attaccato alla bocca, però non sono abituato a parlare col microfono normale, là. Gli assente lo stesso, già va bene. Ok. Non lo so, lui, io quei cosi lì ce li ho tanti anni. Non me ne ha mai rotto uno, non lo so. Evidentemente il vento era troppo, sicuramente. Va bene. Ok, quindi rumori sottofondo, non si sente niente, tutto regolare là. Ventola del computer, non sente niente. La ventola, ma se uno deve andare a cercare il vero nel luogo, si sente deve. Però poi mi sono accorto di quella faccenda, Claudio. Ero lì alla Pontebria, ma come no? E stavo rifacendo il cavo del destro, il coso del legno. Però la così grande, i capi in acciaio, non acciaio tipo stringato, hai capito? Non ho capito di quelle tipo, sai quelli molti di gruzzi però, non ho capito se è acciaio o se è stringato, in mezzo c'è una specie di fune pure in mezzo, comunque rimane morbido, e quello di acciaio di prima, con affare di tavistare che tirava, e li stavano smantellando, lì, ma adesso non è che mai per cosa un paio di caso e quel ragazzo che mai quando sto in bocca che sto qui però raccoglie da dentro la macchina e cazzo e lo imboccati e con faro vento che rimane il piatto ma io non li trovo e li ho messo qui quei capiti, capito? Sono molti di come quasi come la cosa, però sono tipo acciaio, tipo zingato, non ho capito, tipo quelli che sei tirati in acciaio come li vuoi chiamare, capito? E gli ho messo tre di quelli lì, gli ho messo tre di quelli lì e già tirate su quello a girare il cazzo, via, a tirare, capito? Ehi, un tornecchietto c'è, un tornecchietto piccolo che stringe, già va bene, ottimo, no, già sono, già vanno bene quelli portati alla materia di fin di ferro, l'acciaio non influisce, non fa assolutamente niente, già va bene, avanti, già ne chiaro. Giuseppe Leoncinova, di Giuseppe Tettù. Buonasera a tutti quanti i componenti sul 10, ciao Claudio, ciao Gigi Vulcano e ciao Gianni Chiaramonti. Come vi sentite? Claudio, sono andato a prendere quella roba e l'ho pagata 3 euro, però in questa cuffia ci sono due spinotti, uno verde e uno un arancione, e tu c'ha un antennino. A cosa serve, Claudio? Un antennino, che è un microfono quello. Quello serve per i computer, capito? Per i computer. Per le cuffie usane uno di coso. Perché hai preso quello per i computer, non hai preso quelle, le cuffie normali di radio, diciamo, perché ti hai fatto avere quello col microfono, cosa te ne fai se non c'hai computer? E vabbè, intanto costava poco, costava 3 euro mi sembra, ho pagato 3 euro, 3 euro, hai capito? Dunque, andava, ho detto, beh, le altre costavano quasi 11 euro, hai capito? E vabbè, se senti bene lo stesso non c'è problema, se poi magari ti serve anche il microfono, puoi usare anche il microfono col computer, io c'ho quello lì lo stesso, quello col microfono, perché quando vado al computer, magari su Skype o al computer in generale, uso anche il microfono delle cuffie, capito? E a me si sentono bene? Bene, benissimo, guarda, veramente sono ottime, veramente si sente un bombo, poi c'è la regolazione del volume e tutto quanto e va bene. Sì, quella della regolazione è come quello che ci ho trovato, qualità prezzo vanno bene, per l'uso che ne facciamo noi, ciao, vanno bene. Ok, Gianni Chiaramonti, l'hai sentito a Leoncino? Ciao Gianni Chiaramonti, e beh, tutto bene? Tutto bene, però se sento a Gianni che c'è il traghetto che sta arrivando dietro. Gianni, guarda dietro di te, c'è il traghetto, mi sta entrando il traghetto in porto. C'è un traghetto, sente un traghetto, la tromba di un traghetto che entra. No, la terrina sta entrando, Gigi. Ma tu arrivi della alieni. Sta entrando la Tirrenia, quella grande. Però non è che qualche tiro interno le tocca del microfono, perché non me la faccio la mano. Me l'ha tutto uno stato, me l'ha troppo completamente, non so se mi ha fatto anche questo. E chi? Stato, è stato una scotta, una scotta, una scotta in macchina. E l'ho potuto buttare, solo per dire come si scrive in un video del studio, con gli altri controlli. Hai potuto lasciare un microfono a macchina al sole, è sempre plastica, capito? E quindi troppo scioglie tutto qua. Eh sì, anche io l'ho sentito un paio di volte, poi no, non l'ho sentito più. Però sicuramente qualche falso contatto, avanti lui. Ehi, positivo, sì, era una tromba, sbagliavo traghetto. La tromba delle canzone di quella zona del coso che sta uscendo dal porto, sta entrando, suona un po', ma sono cose di... Ma si sente anche la musica della chitarra delle cose che piove, c'è il mio figlio sotto che sta suonando la chitarra elettrica e non so se si sente anche quando parlo io. No, vabbè. Va benissimo lui, non ci stanno problemi, tutto roccia. Si sente la chitarra elettrica sotto. E sta provando, qualche cosa, però la chitarra sotto. Non so, però suonando qualche pezzo di... Sì. Si sente la chitarra sotto, cioè la chitarra sotto. Oh, ma silenzio, non si sente niente lui. Avanti Giuseppe, riprendi. Sì, già, no, più che chitarra sento che sia qualche ventola di come si chiama, una ventola, ho più rumore di ventola, capito, o di... No, non ventola, non ne abbiamo qua. Io sento nel suono della chitarra elettrica, nelle pompa qua. No, no, ventola non ne ho, c'ho alimentatori, adesso ne ho due qua, e tutti e due senza ventola, uno grosso che me l'ha dato, l'avevo comprato da Salvatore Maestrale, che non ho neanche io, quanto serve, sarà uno grosso, me l'ha dato lui, però ventola non ne ha, e quello è spento, però un altro, neanche quello mi pareva dato Salvatore, lo sa, anche quello mi pareva preso tutto il blocco da Salvatore Maestrale, però neanche quello, sono tutti senza vento, l'ho messo la cielo giù a garage, quello l'altro grande, però quante volte l'ho operato, anche se si accendeva la ventola, forse perché era lontano, cioè in alto, io lontano dagli apparati, e non si è mai lamentato nessuno spazio di ventola, di là di là. Qualche antennata sotto, ma ventola proprio no, per riprendica. Lui, ma questo microfono deve essere il tuo però, malato Mauro, c'è scritto dietro in grigio LV. Il mio è, gli ho volato insieme al baracchino, Marco, insieme all'apparato gli ho dato. Ai ai, infatti era attaccato alla 48, ma questo qua sto usando. Dove sei Gianni? Ah, è quella postazione che eri ieri. Gianni? Ok. Oh, Giuseppe. Allora, ho preso l'occasione. Nel stereo Radio CB, stereo HF Radio, c'è un baracchino. Ci ha messo l'annuncio di un baracchino digitale come nuovo, funzionante, vendersi 50 euro, no? Il numero è questo qua, 345 12 56 874, chi può essere? Non lo so Giuseppe. Non lo so, ma è che marca è questo baracchino, non si sa. No, non si sa, non l'ha messo, ha messo solo baracchino digitale, però non so che marca è e che cosa. Ha messo solo il numero del cellulare e basta. Non lo so, è baracchino digitale, bisogna vedere che marca è. Perché io con il baracchino digitale non ci vado molto d'accordo. Preferisco più quelli di vecchia generazione, quarzati, con lo strumento analogico, capito? Tipo questo, l'HB23, l'MS200, io ce li ho tutti analogici. Tutta roba vecchia che però fanno buon brodo. Questi digitali, boh, saranno belle radio, per carità di Dio, però non mi trovo, gli Smith tutti a LED, non sono molto digitale, un HF, allora quello sì, ma questi baracchini non si chiamano digitali, c'hanno questo smitter a LED e basta, poi sono normalissimi baracchini, quindi non capisco che baracchino sia digitale, non lo so, bisogna andare a telefonare, bisogna sapere la marca, a vedere. E capo, adesso come rientra mio cognato, mi faccio portare il cellulare e le faccio un colpo di telefono e voglio vedere che marca è. Secondo che marca è, per 50 euro ci potrebbe anche prendere, vero qua? È una grande, qualsiasi baracchino sia, per 50 euro va sempre bene. Tenendo conto che lui lo chiama digitale, però io ritengo che baracchini digitali io non li conosco. Non le conosco, c'hanno lo smitter a LED e basta, poi il sistema all'interno è tutto normalissimo come tutti gli altri, capito? Poi i baracchini digitali ce ne sono, ma non costano 50 euro, non costano 50 euro. faccia a pè. Avanti Luigi. E a tu adesso ci sono i preparativi militari, sono quelli che c'erano presenti. L'ho sempre precisato perché qualcuno dice digitale perché lo vede che c'è così all'ente in tale questa anchetta, ma non è digitale quel paradiso medico. Però ti voglio dire una cosa, Claudia, anche a Giuseppe. Se vai da Fusaro, guarda, c'è a disposizione Lafayette, so che è un bel apparato, e costa 75 euro. C'è i tuoi 40 canali, FM, ed è un bel apparato, so che funziona pure bene. E costa 65 euro. Se è quello che ti sto dicendo io all'ente, che è tipo quello che ho io in garage, quello piccolino, Claudio, è quello che ho in garage, quel Midland che ho, cos'è, 100, 196, 98, del cavolo, 99, e c'era anche lui Giuseppe. E quello non costa più di 50 euro, costa anche di nuovo, costa una cosa del genere. Attenzione, sono quegli apparati. Comunque un'altra cosa voglio dire, se interessa, c'è un amico mio, Renato di Cagliari, che c'ha un tornado, che se lo, ne ha detto, se lo vuole vendere, c'ha un tornado, però il 40 canali, non 30, il tornado, aspetta cosa mi ha detto, comunque il 40 canali, con scheda eco e doppio modulatore densa, doppio, c'è anche il doppio modulatore, la scheda eco Colt e tutta la versione parte in regolazione quella e quell'altro, lo dà 200 euro per fare così, perché solamente a quell'apparato ci vogliono 200 euro e lui te lo dà, ce l'ha apparato e tutto con le modifiche già fatte, 200 euro tornato, non il 34 ma l'altro che c'è 40 canali, me l'ha detto però non me lo ricordo. Plus, hai capito, Gigi? però ce l'ha, non Fusaro, ce l'ha Torino CBC, hai capito? Ma la stessa cosa, sono sempre uguale, comunque sono sempre quelle, hanno sempre 40 canali e le 6, hanno 40 canali e le 6. Comunque ti dico questo, se uno poi vuole avere un apparato serio, più serio deve prendere un po' di soldi, perché c'è la possibilità, Claudio lo sa, però costa 300 euro, costa 300 euro. E tu hai un apparato omologato, omologato con omologazione, e c'è le bande laterali, e c'è sempre con quattro parti, vero? Sotto 1001 lo danno omologato con le bande laterali, FM, c'hai i, come si dice, i canali alfa, 10 più 10, frequentimetro, tutte queste cose così. Ed è omologato, esce dalla casa con 4 watt e non va anche banda laterale, ed è omologato, però ne costa 300 euro. Uno quando ha la possibilità di dire sì, me lo voglio prendere e me lo prendo, ma tu prendi come me uno che adesso è in attesa di poter lavoro, non posso fare tutta quella spesa oggi e non me lo permette, capito? Già dopo piano piano mi stanno aiutando tutti quanti però non va la spesa. Va bene questo qua, questo che mi ha regalato il fratello mio compare che sta andando abbastanza bene, mi tengo questo per casa, a voglia ce n'è anche per i pozzi, capito? Positivo, no, io stavo dicendo, se uno vuole una cosa, essere tranquillo con tutto, che il controllo è quello e quell'altro, l'8001 poi abbiano fatto altri baracchini con le bande laterali, omologati non lo so, io sto parlando omologati, perché se no ce ne sono che paghi poco, girando le bande laterali ce ne hanno tutto quanto. Però sto dicendo questo, lo mettono omologato così, invece con 4 watt e pure in banda laterale, non raddoppia niente. Ma sta apposta, così, poi lo tocchi dentro, cioè lo una cosina, allora va a gonfia vera. Comunque, infatti la potete comprarmelo io per casa per averlo regolare. Io due ne avevo, uno ce l'ho e l'altro l'ho da Costanzo ed erano due modificati, cioè due modificati. Invece è normale, quando voglio passare in FM vado in FM, posso andare in banda laterale, in FM vado, cioè dove voglio io posso andare, capito? Ed è a norma di legge, capito? Così è, avanti Claudio. Lo sento sotto gente a parlare, non lo so se è propagazione, qualcuno che vuole entrare, c'è qualcuno che vuole entrare nel canale 10. Scusate un attimo che sono al telefono, ho Claudio. Gente sotto la propagazione, lontananza, gente lontananza e Claudio. Gente lontananza che stanno parlando, però sono molto lontani. Vedi, c'è Marco, c'è che c'è un'altra passione. Se la fa 6. Non ho capito, se sei in macchina o a casa? Oh Gianni, ti ha chiesto se sei in macchina o a casa? Andato bene già, ma non ce l'hai qua una mazzetta, un mazzetto di ce l'hai già portata di mano? Confettini, allora quel microfono. Scusa un attimo, riprendo subito. Thank you. cos'è quando costa un M300, l'M300 che non lo trovi, tu lo sai quanto costa un l'M300 stiamo parlando, è l'M300, tu lo sai quanto costa? I servizi, no? Claudio mi sembra, non mi ricordo, Claudio forse se l'aveva comprato uno, se l'aveva ordinato, non mi ricordo, capito? Io ce l'ho qua, io te l'ho fatto ascoltare l'altro giorno, se vuoi te lo faccio ascoltare pure adesso, sì, vogliamo. Però io ho l'adattatore, mi sono fatto, capito? L'adattatore, un altro pezzo di lunghezza, hai capito? E cosa faccio? Da una parte entro quella 6 punte e dall'altra parte c'è 4 punte, hai capito? E attacco il microfono e posso mettere tutti i microfoni che voglio io, hai capito come faccio? Già, mi ho fatto lo spezzone io, un pezzo di spezzone e da una parte entra 6 il baracchino, perché andiamo anche al sito, ed esce a 4, e attacca il microfono a 4, e capisci da fare il lavoro, solo metto un pezzone, capisci? Ho un pezzone e ho fatto il lavoro io. Quello che stavo adoperando io prima, nuovo, a Marrubio a Tempoli da 14 euro. Poi già quello Mitra, già il Mitra è costa 12,50 euro, quello nero però. No, questo parlando anche del nuovo. Lì a Marrubio a 4 punte però. Poi c'è direttamente a 6 punte senza fare nulla e costa 14 euro della Prosser e sono dei buoni microfoni. Però normali, io parlo microfoni normali. Adesso deve vedere lui oggi cosa gli interessa. Date un appuntamento con te, fagliene vedere qualcuno, se gli piacciono se lo prende, ecco gioco ti dica io più di questo non posso dire, lo sto agevolando e tutto quanto. Sì, poi sì, ma no, ma io ce li ho quelli microfoni, ma io non ne do, non ne do neanche qui, li tengo io. Ci sto vendendo direttamente a comprargli dei nuovi, capito? Ci sono vendendo. Io potrei dare questo che sto parlando adesso, l'M300, questo qua però. Mi avete quanto ne vuoi e se gli va bene a lui, Posso queste a 4 punte, deve fare l'adattatore, con questo se sta viaggiando deve parlare lontano, lo lascia lontano, io in macchina in vettura, quindi deve fare distanza lontano e non si vede, non ce l'hai vicino alla bocca di troppo, capito? Adesso ce l'ho io a 50 cm da me con il microfono parlando. Gianni, ci sì. Adesso sarà 20-30 centimetri, guarda un po', l'eco tutto abbassato. Questo è l'M300, quello che costa 60 euro uomo, te lo trovi. Capito, questa c'è la batteria, l'M300 sono i migliori assoluti come microfoni amplificati di questi palmari, parlo io, sono i migliori assoluti questi, 300 sono quelli più cercati, capito? Solo che io ho tutto il micchino in chiuso, se questo su poco te l'altro, principalmente in chiuso. Guarda, sono un passaggio di faccia e basta, ed è al minimo, perché questo se lo metti vicino alla bocca, vedi, aumenta però è brutto. Guarda, se proprio ti potrebbe interessare, però ricordati, è a 4 punte questo, se proprio ti dovrebbe interessare, guarda, no, meno di 40 non lo do assolutamente, lo lascio lì buttato, meno di 40 non lo do. È quello, sai da chi te lo fai fare, tanto non costa niente a farlo. E da Pompugno è più bravo a saltare e a fare, capito? Lui è più bravo a saltare, io dopo già ci vedo poco, capito? Già li faccio per le cose, però ci vuole molta pazienza, capito? Uno ne ho io di quelli lì da saltare, ne ho uno. Se ti piace, questo è chiuso tutto il bicchiere per non essere forte e bene, lui lo tolgo questo che sia troppo forte e sicuro nero. Se ti interessa questo, se ti interessa, senza nessun impegno, attenzione, te lo dico, non mi interessa prenderlo assolutamente perché non mi interessa proprio. Se vuoi, proprio ti dovrebbe essere coso, se lo vuoi te lo per 40 euro te lo do. Se proprio si dovrebbe mettere senza impegno e senza nessun impegno, capito? Già. Mi avete chiamato? Sì, prima tipo Claudio. Sì, ma non mi ricordo, ti ho rilanciato, ma forse ti sei attentato a qualcosa. Io ho il telefono. noi mi interessa di spendere, noi sta cercando un microfono. Io gli ho detto già cosa costa nuovo, io ce l'ho qua, non è che mi interessa, non mi interessa proprio venderlo, però se meno di 40 euro non glielo do, non lo do, non lo vendo, non lo do, mi lo tengo io qua, non lo adopero ma me lo tengo qua. Io l'avevo pagato, mi pare, usato, mi pare avevo pagato 80 euro, 90 euro, una cosa del genere. Allora io ho tirato l'altro giorno, l'altro sta attento, ne devo togliere, e ne devo togliere un altro da sopra il tetto, e che ho fatto un altro lavoretto, una cosa, non so quanti metri sia, capito? Non lo so quanti metri, se ci sono 24 metri, questo non lo so, perché 24, può darsi che ci siano, ma non ho 4, quanti metri era da sopra, oh Claudio, da più o meno da sopra su dal tetto mio al garage, quanto metri avevamo messo, ce lo ricordo. Ho un problema al PL, non posso riprendere, comunque un po' di metri. Ma non stai uscendo, Cla, Ho un problema al PL, un attimo. Ha detto che ha un problema al PL, che è per questo motivo che non può riprendere. Ciao, va bene, ciao Antonio Grote, buonasera. Oh Gianni. Comunque già, io dovrei avvercene, 20 metri dovrei avvercene Gianni, capito? Perché poi abbiamo comprato 40 metri, non me lo ricordo, comunque avevo speso più di 100 euro dalla CPC. Abbiamo speso più di 100 euro di questi cavi, di questo striato di capo grosso. Quello grosso però sto parlando a me, il 213. Bisogna misurarlo. Già, lo devo misurare. Quello che c'ho per lo devo misurare. Bisogna misurarlo e non so se si può fare un barilottero e come cavolo si chiama e aggiungerlo, questo non lo so, perché ce l'ho il barilottero, non so se fai. Se fa aggiungerlo in caso che non arriva, questo non lo so. Quello che chiedo sempre a Claudio se si potrebbe fare. È meglio essere continuo. Un barilotto immenso non lo so se si può fare. Allora, fate un giro di conti, te lo dico subito. Allora, io ne avevo preso 40 litri, ma ha fatto lo sconto, poi una cosa e l'altra avevo pagato 100 euro. 105, non me lo ricordo. 100 o 105 ha fatto lo sconto. Fate il conto tu, 40 litri ne ho preso. 40 litri da CPC. E 40 metri mi ha fatto lo sconto, mi pare 100 euro, 105 euro, una cosa del genere. Tu dividilo 40 per 100 euro, dividilo, poi sai quanto era 4-5 anni pure sarà che ho messo quell'antenna lì sopra il tetto. Fate un giro di conto a quanto è il metro. Antonio, credo che tu sei più veloce in matematica, quanto è il metro? Ma io da quando è attaccato la portante, come hai detto la cifra, sapevo già che erano 2,50 euro, e che me lo devi far dire subito, sennò non c'è gusto. 2,50 euro a un metro fuori. Ma devi dire, perché mi ricordo 2,60 euro, una cosa del genere. No, 2,50 euro, perché se tu moltiplichi 2,50 euro per 4 sono 10 euro, quindi erano 40 metri, sono 100 euro. Ma mi ha fatto lo sconto, perché costava di più, ma mi ha fatto questo, ma lo arrotondato, e costava di più. Pagava. No, io devo dire la verità, per una questione di calata non offro questi problemi, perché ma al massimo c'ho 5 metri di calata, 5 metri e 50 di calata, perché sono all'ultimo piano, il carato ce l'ho su, quindi assolutamente. Non va bene anche l'RG58, anche perché avevo le tabelle comparative. Le tabelle comparative qua, se volete vi dico quanto ha di perdita ogni cavo. No, ma quello grosso, no, io ho già provato, le cose, quello là è grosso, paragone, dai. Non c'è paragone. Comunque, già, non lo so, se ce ne ho 20 metri, 4 metri, non lo so. no, perché si sono configurati. Usare l'aperto stamattina, trattare tutto. Torre di controllo. positivo, avanti Gigi. Questo poi non l'ho ascoltato prima per il fatto del supermercato, che se non l'ho fatto io, ed è tutto un fatto per quel motivo lì, capito, tutto chiuso, quindi è tutto a zero qua, capito, perché se tu lo apri, no, per la libraria, capito, e allora e sto usando un apparato con 4 passi, non va oltre 4 passi, capito. E vado sempre con questo apparato, poi la sera apro il chichi e continuo sempre con questo, poi ne ho altri apparati, capito, che sono attaccati, se ne è un altro attaccato, ma non lo posso attaccare adesso, quello che faccio quando c'era quello di quello fuori, non penso dove era, l'ho attaccato e mi sono mandato 600 fatti, l'hai sentito anche senza ecco come andava con 600 fatti. Però lo posso fare dopo le 10, che sono chiuso e capito, prima di quell'orario mi fanno un chiuso e piano piano, capito, poi abbiamo altri garage, sono abbastanza forti, ora mi chiedo di pompa, però dopo questo qua è un altro caso che mi serve dopo le 10, attacco e ce l'ho, capito, potente. A parole, no, ma infatti stavo dicendo quello, se vuoi mi spegni la luce di casa, però c'hai questi impedimenti, ma poi ti ripeto, stiamo facendo un QSO tranquillissimo, non è quello. Avanti, Gianni di Chiaramonti. Dove sei? Gava e Gava Ruggero, avanti Gigi, ma oggi che giro hai fatto? Come mai sei già a casa da presto? Ho fatto questo giro stamattina e sono stato alle 6:15, perché oggi è sabato, e quindi non posso andare ancora. Non è stato molto, molto tardi, sono stato alle 6:15. Alle 7:30 stavo già facendo colazione, ho preso un caffè anche la pasta, insomma, poi intorno alle 9 qualcosa mi ha raggiunto Massimiliano, ci abbiamo preso un altro caffè, un'altra cosa, due chiacchiere, e quello che ho fatto, sono entrato a casa, ho fatto una cosa del pane, poi mi sono piatto alla montagna. Ho fatto io il pranzo, ho preparato il nostro pranzo, ho fatto il caffè, ho preparato il caffè, sono tornato a casa, sono andato al supermercato, ho comprato una bacchetta di gelato, ho comprato un programma, ho comprato mangiare. Che gusto era? Cosa? Perché stanotte mi mangio un piatto di passaggio per me. Ma che gusto era là, il gelato? È tipo cioccolato. Allora, ci sono sempre cose che ho visto alle nocciole, cosa del genere. Io al mattino alle nocciole intere sopra, e l'estate anche se. Nocciola stracciatella o Gigi? No, era nocciola affogata, gelatina, una cosa del genere, gelatina, capito? E niente, gli ho dato un pochettino a mia moglie, se non si faceva male a me, e poi le sono tutto mangiato lì. Brava, brava, così è bella la vita. Oi. C'era anche Falchetto? Negativo, non c'è Falchetto, c'è sta mio figlio sotto, nel piano del sotto, con questa chitarra elettrica, poi bucano la fine, ha già fatto 2 o 3 pezzi di Santana, è finito. Sì, la chitarra. Suona dove è fatto un'altra chitarra, dove è questo. Sono molto attacco quella fisarmonica io, mi attacco dopo le 10, vede come si incontra la chitarra lì, la amplificatore. Sì, brava, brava, io ci credo, li ho visto. E poi, no, loro c'hanno la faccia della macchina. No, purtroppo questo sono separati, sono a metà produttore dell'altro a metà quattro, e niente, sono lavorati e adesso sono ancora con il tuo. Ho capito, ma oltre i due gemelli che hai come figli, hai altri figli? Sì, Germa ho quello qualche 19 mesi, quello che ti ho detto che era mia la fetta tra io e anche qualche. Ah, il Sacciarese? Sacciarese, sì. Cava, cava. Avanti, Gianni Chiaramonti, dove sei? Chiaramonti. Attenzione alla frequenza, qui la sua prima volta vol in veicolo. Canaria ci ascolti Sassari, cambio. Attenzione Gran Canaria, attenzione Gran Canarie. Allora, se più 11 metri, sono qua ascoltando a stazione della Italia, vogliamo sapere se anche se ne passa 10-4, 10-4. Allucinante. Porca miseria. Canarie da 34. Cos'è? Cos'è? Secondo te cos'è? Non lo so che cos'è. Non lo so. Che cos'è? Quella bestia, capisci a me? Mi ha fuso il piede. Quella bestia a me. Il pittore io che è arrivata lì. Mi ha fuso il piede, cazzo. Fuso, l'ha sciolto. Io lo uso piede al cacchio. Mai visto una cosa del genere. Non va avanti. Cioè l'ha arrostito. Sì, allora. L'ha attaccato dal marinotto. La roba è a vita. Io mi stavo parlando. Ma non ce l'avevo attaccato. Non ce l'avevo attaccato. Stavo parlando, cioè stavo ascoltando, ho visto Luigi che è sceso di segnale. Stavo prendendo di lui, guarda che è calato di segnale. Poi tutti gli altri, ho visto che hanno calato di segnale. Sono tornato al termatore, niente, non c'è niente attaccato, non c'è nulla attaccato. Controllo il PL dell'antenna, completamente sciolto. Come avesse l'altro giorno quando l'ho provato. Carica. Ma quella bottiglia sta dicendo? Allora, maledetto sia, già ero un anno senza usarne, ma già a me l'ha fatto bello il PL. Quel PL è in macchinetta nera, l'ha staccato completamente dalla sede. E ballando andava in corto. Roba davanti. Adesso gliel'ho messo nuovo, quello anfano con il vetro. Dice adesso spara anche quello. Puzzi, non uscio da gatti, hanno aperto l'amplificatore. Ma te ne immagini? Ma tu hai verificato quanto spara? Un bel, con le mie radio, tanto parecchio, ma nel senso di parecchio, un bel. Cavaliere, Giordano, hai fatto un ottimo acquisto, ottimo. Sì, ma guarda, io ho 15, sono entrato a 14 anni, allora ho fatto il conto, ho 51, scala, mai visto una cosa del genere, mai vista. E l'ho usato altre volte. Diciamo che quello l'avevo mai usato, l'ho usato il giorno che ho fatto quel segnale a Luca 9.45. Ma da quel giorno lì poi l'ho staccato, non l'ho più usato. Evidentemente il piede era già cotto, era già andato. O era difettoso. E me ne sono accorto adesso. È partito del tutto adesso, capito? Ma Roger, hanno lato più l'antenna mentre stai modulando? Esce Maria, si appoggiava qualcuno ormai attaccato. Allucinante. Fortunatamente io sono sempre dei cavi, non ho cambiato piede sopra, Sopra mi ha sciolto l'antenna, non quello di sotto, no, sopra, in antenna. Ho dovuto abbassare l'antenna, fortunatamente viene bene perché c'ho la scaletta, c'ho tutto, non l'ho fatto la grande anche sopra il tetto. Quindi sono salito, ho passato il telescopico e non ci sono tirati niente in quell'antenna. Sono andato a svitare il piede e mi è rimasto in mano, completamente cotto. E fortunatamente ti dicevo dei cavi di scorta, delle calate di scorta. Capito, per non stare adesso c'è troppo vento, per non stare a fare il piede nuovo, domani poi lo faccio. E ho invertito le calate, gli ho messo un'altra calata nuova, con il piede nuovo e il cavo nuovo. Fortunatamente, altrimenti dovevo rimanere su, c'è un freddo, un vento freddo, ma sta 40 metri d'altezza. Kappa, quanto è l'altezza, quanti piani ha? 10 piani sono. C'è la torre centrale, quant'è? La torre centrale, questa. sono, quindi da giù al nono piano, decimo piano con la mansarda, più c'è altre 4 metri di altezza per arrivare all'antenna, infatti sono 4 metri di scaletta che ho fatto fare io dal fabbro di quelle agganciate al cornicione per salire su nel nuovo ascensore dove ci sono tutte le altre montate. Ciao Ruggero, quindi è quella centrale? Il palazzo centrale si vede? Sì, sì, il palazzo centrale. Il palazzo centrale, quello lì. Non va avanti. Non ho mai visto altrove. Era completamente staccato dal connettore del piede. Si era magnato. Deve essere come l'altro. Il corpo dei VAT l'altro giorno ha iniziato a scioglierlo. E adesso si farà dello fumo dello tutto. E quindi sono salito, ho invertito le calate adesso. Ho preso praticamente la calata a quello dell'antenna di 6 metri, adesso non c'ho l'antenna di 6 metri, quindi devo rifare subito il piede e ricollegarla. Fortunatamente, cesce, per la carità di Dio, mamma mia che spavento, pensavo di aver fatto l'anno, eh. Pagava, quindi ti sei ricreduto sull'acquisto che hai fatto, perché inizialmente avevi detto che non era, che non ne valeva la pena. Minchia, una bestia tu, è una bestia veramente, roba da matti, ma gli hai visto il segnale, la Luca quanto è aumentato, quando ho fatto la prova 9,45 praticamente a livello di uno vicino a casa sua, io arrivavo 9,50 e ora vi appasco, ho fatto il conto, no, ma non mi sono proprio accorto, ho notato ieri che stavo andando a un falchetto, che ogni tanto saliva e scendeva il segnale, ma sarà il vento, saliva e scendeva il segnale, e invece era proprio il PL che toccava e non toccava, cioè adesso col vento si avesse staccato del tutto, vabbè, risolto il problema, comunque già sono veloce, io mi accorgo subito dei problemi. Cava Gava e Cava Ruggero, ma le 7 bistecche? Come? Le 7 bistecche ci arriva? Sì. Viene? Sì. Sì, in quarta, in quinta l'ho provato. Sì, 600 pieni, 600 modulati. Alla quinta dovrebbe essere 700 minimo, 650. Sì, ma non è quello il problema, capito? Non è quello il problema. Il problema è che sto pensando che il piede non fosse difettoso, perché quei piedi lì macchinite, non so se tengono 500 watt, adesso non mi ricordo, quelli del cacchio che vende la GBC e Fusaro. E praticamente quando io ho montato l'antenna avevo messo uno di quelli lì perché non ho detto potenze grosse non li uso, è giusto per fare due chiacchiere, mentre dalle altre parti le direttive, tutte le antenne amatoriali lì sono tutti i PL Amphenol che sono quelli in porcellanti, capito, che tengono 2 kW e quindi sono quelli lì. Non mi sono ricordato che diceva quello, altrimenti mica avrei fatto la prova. Vabbè, comunque adesso l'ho cambiato, li ho messo anche lì in porcellana, così il problema è risolto. No, non ci sono problemi. Capo, ma con quanto lo stai pilotando in entrata? 10. Perché ho sentito una persona, mi ha detto che di solito quelli là vanno pilotati massimo con 8. No. È 10-15 di piccolo, non c'è problema, già ho visto le caratteristiche, 10-15, quindi va più che bene, diciamo 10, ma poi modulate di questa radio qua sono 8-9, no, ma va bene, risuona molto bene tutto, l'unica cosa è che mi sono accorto di questo cacchio di PL a culo di scimmia. C'è un sonno abbastanza, guarda. Cosa hai fatto le ore piccole di notte? Facciamo una prova, un secondo solo, così mi tolgo il dubbio, vediamo se aumenta. Quanto è il segnale di latte adesso con il 140? Così. 8 watt modulati. 8, eh? Ma secondo me c'è un problema questo 140 in collo, sullo Smith, perché è molto amaro, e comunque mi stai dando 9-10 e radio non c'è bisogno. Ma io ho sentito dare i controlli l'altro giorno e sono effettivamente come quelli che do io, eh. c'è da ritoccarlo, si fa davanti, te lo faccio davanti, non c'è problema. C'è il trimerino dello Smith e lo solleviamo un pelino pelino, capito? Proprio un intermedio, ma intanto la zona è questa. Da qua a te c'è poca differenza, capito? Lo mettiamo leggermente più bassino del segnale che posso ricevere io, ma un pelino, capito? E lo facciamo, non è un problema quello. Fai e sono in attesa, intanto facciamo entrare il break con la buonasera. Papa di Rogero, Gianni di Chiaramonti, nota Gianni Dinamite, cambio. Ho chiamato tutto, come succede adesso? Non esiste matto, che cosa si era rotto, perché? Accettiamo anche quello. Avanti Claudio. Sì, ciao Gianni. Allora aspetta che cambio adesso ho connuto l'amplificatore. Così mi dici se cambia. Ok, aspetta che vado sotto. Mollo, eh? Ho notato anche in questo qua che in FM non ricevo più strano, perché prima ce l'avevo sempre. Niente, come se fosse muto, come se avesse perso anche ricezione in FM. No, è che hai lasciato la radio accesa e ci hai parlato con l'altro per ascoltarti, no, siamo stati attenti a queste cose, Antone, perché devi sapere una cosa, a differenza del baracchino, che c'ha un praticamente ricevitore tutto unico, gli HF hanno un transistor a MOSFET per la ricezione, che se tu vai a modulare dentro, anche se l'antenna o con l'antenna attaccata per, come fa tanta gente, attacca le cuffie e si ascolta, con un baracchino lo puoi fare, ma con gli HF no, perché se si brucia quel transistor ti si ammassa la ricezione. Ma non vorrei dirti che io non l'ho fatto, nel senso che se mi è stato venduto così è possibile. Ma qua c'è una bella ricezione, se lo vuoi riportare lo ricontrolliamo, lo attacchiamo per toglierti il dubbio, vediamo i segnali che ho io, non c'è problema, vediamo lo sguardo, su quello non ho problemi a controllarlo, lo porti qua e lo vediamo, però ho detto, questo è un consiglio che io non so a te, ma a tutti quelli che hanno HF, non ci modulate dentro col baracchino per ascoltarvi eccetera, perché può essere pericoloso, capito? Perché c'è un transistorino piccolino a MOSFET che praticamente amplifica il segnale di amplificazione della radio, quindi se quello viene a mancare il segnale rimane diretto e rimane molto basso, quindi ti cala dell'iniezione, capito? Non vorrei che sia quello lì, ma spero di no, insomma, se tu non l'hai fatto può darsi che ci sia qualche altra cosettina, non lo so, non è che l'abbiamo controllato bene, abbiamo solo fatto quell'apertura leggera della radio e basta, però io l'ho tenuto, vabbè, un giorno, visto che andava tutto bene, te l'ho restituito, ma possiamo rivederlo meglio, non è un problema quello, Antonio. No, negativo, ho capito, c'è una differenza fra questo e, per assurdo, l'Intec, dove l'Intec alla grande sull'FM ha una ricezione da paura. Questo qua non so per quale motivo non sto ricevendo la Germania, aspetta un attimino. Ok, capito. Allora, insomma, anzi, se mi perdonate un attimino faccio un giro per vedere, anche se non c'è propagazione oggi, però. No, oh, già c'è la propagazione, ho sentito tedeschi sotto, inglesi, cioè c'è la propagazione, sto andando col baracchino con 8 watt modulati. Avanti Gianni di Chianamonti, ottimamente bene comunque ti ricevo adesso, ottimamente bene, non tocca se. Yeah. evidentemente muovi che si è tagliato del tutto, si è spaccato, si è aperto, capito? E allora poc'anzi non mi sono accorto che mi è venuta a mancare quasi tutta la ricezione, pensavo di aver fatto danno, e invece sono salito su sopra il tetto e ho visto che il PL, come sono andato a toccarlo, mi è rimasto in mano. Avevo invertito i cavi e ne ho uno di scorta, sempre di discesa. Ho invertito i cavi e ho visto che è tutto regolare adesso. Capito? Adesso domani, lunedì, quando c'è il tempo e non c'è il vento, taglio, faccio la saldatura nuova al PL e basta. Adesso glielo così innestato e boh. Va bene, comunque la colpa era la mia, Gianni, mi devi perdonare. 6, 9 più 5 con lineare attaccato e quasi 7 senza lineare. Svarione anch'io, non so se tu o la cervicale si è messa allo stesso modo, ma... Nemmeni la tua. Io se ci penso, non ci devo pensare, capito? Perché se ci penso mi viene la disperazione. Ho preso già due scatole di antinfiammatori, una scatola di pastiglie al cortisone. Mi stanno uscendo anche i peli nelle orecchie. Ma non è stata supposta però. Allora, chi sono la giubilata? Chi sono la giubilata, Massimiliano? Se ti giudisce sicuramente mi passa tutto. Ma passata il mio duro, si dice. Secondo me quando non hai lo spazio li fai soffrire, capito? potessi un giorno venire come ti ho promesso per aiutarti a tirare su l'antenna, quello che è chiudere in una stanza perché mi cago sotto quando vedo quei cani. Già ne ho visto danni fatti da quei cani, che poi non c'è persona che dica oh, che non ho, ma quando lo fanno dice non l'avevo mai fatto, capito? No, meglio, a me piacciono tantissimo i cani da caccia, questi cani qua che sono tenuti da incroci, sai che il pitbull non esisteva come razza, è una razza che è stata ottenuta da incroci strani dagli inglesi perché dovevano accompagnare i poliziotti inglesi durante le ronde. Non mi fido, tanto è vero che loro stessi si sono resi conto che non li hanno mai utilizzati perché si sono resi conto dopo aver fatto questo incrocio strano che avevano ottenuto un qualcosa di poco gestibile e infatti non li usano. Dei molossi, la conformazione cranica, per cui quando vanno a schiacciare tendono a imprimere 1800 kg sul morso, cioè una cosa devastante, proprio perché hanno quella conformazione cranica, non hanno il muso lungo, quindi come schiacciano frantumano. Se mi capita un cane così io prego solamente a San Pietro, ma sai San Pietro chi? No, Pietro Beretta, perché l'unica cosa che va bene per quei cani quando ti si girano è Pietro Beretta, Gardone e Valtrompia. Mi curi due fusilati oppure due pistolettati e vedi come si calmano subito. No, compare, non è così, perché se si girano li puoi riempire di piombo. Thank you. stesso e vedo che va benissimo, non ci sono problemi, non c'è bisogno neanche di chiedertelo. Ok, no, poi fatto usando il 430, adesso sto usando il 440. E quindi stavo invertendo i microfoni. E un mio amico c'era il Pitbull, o Gianni. Il Pitbull, però non mi ricordo che, perché di Pitbull ce ne sono tante razze. Questo è una razza blu e grigio, ma è fortissima, però è molto obbediente. Non so se il tuo è obbediente, blu. notata anch'io quella, la neve, ben sentito, mi hanno ascoltato da questa parte di Grodde. Cos'era? Bella mattina, no? Scava di roccia, no? Adesso ho rinviato la mattina alle 10, di nuovo lì al porto a 9, ma c'è un parte dell'equipaggio che è la barca più vecchia del Mediterraneo. Scappa, ma di chi? Del dentista? Scava di roccia, no? Quanti a 1000, ma sono mai 1869. Allora, salutami Vincenzo, che è un sussinco di Scoglio come Claudio. Salutami Vincenzo, fagli pure il mio nome, se ti ricordi il cognome, non ci sono problemi, è un mio grande amico. Cava, cava, com'era? Antonio? Non me lo ricordo, scusami. Tu digli Antonio, il cantante lirico. Cava, cava, io. Avanti, Gabriele. E infatti girare, c'è anche Gianni di Chiaramonti, dai, che trovate un apposto qua. Avanti, Gianni. C'è Daniele, o Daniele, ti stavo dicendo, ma vedrai domani, secondo come ne vedi un paio che pigliano in buccia, nel senso che si girano e scuffiano forte. Attenzione, perché una volta che arrivi, che hai superato un certo tratto lì alla cosa, arrivano delle raffiche di vento, da paura. Non ti preoccupare, l'unico malato che è uscito oggi con una barchetta di Dimitri e Giuseppe Rificio. Conoscito al posto si vedeva quell'antenna che ballava, ballava e riballava, si piegava tutta e dice c'era lui in piedi col timone che diceva a tutti quanti, yuhu, non vi preoccupate, queste sono le montagne russe. Sì. Salutami anche se li conosci, quelli che hanno la base imbarcazione che si chiama Puppi. Oh, lo sai, io visto che c'è uno, invece l'ho mangiato lui, Barracuda, che su di Genova fa spettacolare, spettacolare. Però è un'impressione che ha una chiara la folla, il figlio prima c'è una valuta, tiene. Oh, sembra sempre finta la cantiere. Tutte le volte che l'ho vista è sempre lungi, la bella lì è la perfetta. Ma quanti siete d'equipaggio? Sei? No, in 10 siamo, sono anche a 1000. Lo sai che carro è? K di Roger, come mai lo conosci Vincenzo? Tramite mia sorella, mia sorella ha fatto un altro, quindi andando in barca con Giuseppe di Vincenzo, poi intanto veniva da Giuseppe, da Roberto, allora per quello me lo conosco. Poi siccome Machiavelli non è soltanto su quelli perché altra persona, per esempio un amico mio che si è fissato in equipaggio e fa le regolazioni, e allora sono lì per quello, capito? Daniele, ti sei abbassato il segnale, non si è capito niente. Adesso va bene, ripeti. Mi ero dicendo, te lo conosco, anche la lingua di un rivincio, tramite mia sorella, facciamo i così vieni, ci pagheranno, dico la pizza. Quindi la lingua di un lazio, così. E poi l'amico mio, sempre di Porto Torres, che va in barca vera, si conoscono dalla vita, le fa le regolazioni di barca, la pizza. Poi Machiavelli è società, non è solo di Gino Tempo, già lo sai, no? Ma sì, sapevo che erano, mi sembrava, in due o in tre. E io mi ricordo, l'avevano varata, se non sbaglio, forse 8 anni fa, forse 10, dai. Ehi, buoni, avevano pagato 6.000 euro e uno l'hanno levato all'acqua e si è rotto lo scafo. Ma non era una camera, era stato addio. E poi si hanno preso un bel po' di soldi per farlo nuovo. Capito? Sì, è un poveraccio, sicuramente avrà dovuto tirare la cinghia, guarda. Scusami che stavo parlando il 25 dicembre. Sì, stavo dicendo che è un poveraccio quello, questa per Vincenzo, avrà dovuto risparmiare. Guarda, ha soldi inversamente proporzionali a quanti capelli ha, quindi non ha, figurati cosa gli è costato, se la poteva anche comprare da solo o rimettere a posto da solo, allora, sicuramente l'ha presa in società per sfizio. Sì, per sfizio, per divertimento, quello sì, poi lui si è comprato verso io, mentre la mia sorella si è comprato una banca vera adesso, con le palle, ancora come bellino. No, un altro di società che sono di sicuro c'è gli inquiliti, quello del fatto, però l'altro quello di Giulia, che poi sempre più la salsa, però Mauro è fuori di simpaticissimo, una persona davvero in gamba, guarda. Mi è capitato di vederla a qualche festa lì, non so se sei mai andato nella villa di Vincenzo, è una persona squisita. No, no, te la so proprio Vincenzo, io è raro che ci vediamo, ho capito, c'è una, due, tre volte all'anno che ci vediamo, quest'anno era prima, quest'anno un po' adesso ci siamo visti con Vincenzo, quando mi chiede se l'avevo visto, una volta l'avevo conosciuto così, beh, mia sorella mi ha presentato, mi ha detto chi è, siamo Mauro, poi c'era con lui, ma un po' la ricavo. Se mi ricordo non aveva propriamente il fisico la barca, era un pochettino come Zavorra, va bene. Allora, perché c'è del pedruccio? Perché si sente quella marchetta, altrove si vedeva la linea di galleggiamento, un po' era tutto sommerso, era l'ultimo ieri, però erano messi in piedi, un pazzo, pazzo scatenato. La simile di no, 20 giorni fa ha portato la barca sua da Tiziano da Ghierofano, una ragazza, e tutti quanti ce l'hanno portata di domani mattina. Lui la sera prima ci ha messo a posto di 6 ore, 3 ore, ti ho detto tutto. Cava, cava, no, guarda, ti divertirai sicuramente, un equipaggio davvero in gamba. Avanti, Claudio. Eia, positivo, mentre tu parlavi, ho sentito, mentre tu parlavi, mentre mi sei ricordato del tuo... dell'altro microfono, quello che avevi comprato su eBay, che manca la capsula, ne ho trovato una, però non so se è dell'MC60 o dell'SM20, però te la voglio provare a vedere, così mi dici, lo proviamo, può essere, va bene. Ok, guarda, Vicente, se conosciamo da ragazzi, diciamo, da ragazzi, una persona in gamba da niente, non è come dici tu, perlomeno io l'ho visto crescere, e quindi nel senso crescere come dentista, perché è molto bravo, e crescere anche come denaro, perché inizialmente non c'aveva niente, però essendo un bravo dentista, ha molta fiducia nei suoi clienti, quindi ha fatto un po' di soldini e ne sta continuando a fare. Solo bravo, e sono andato, ho accompagnato mia madre per c'era appunto quello di lavoro, perché ha fatto il nautico, quindi mia madre è abidella al nautico, perciò lo conosco molto molto bene, ed è una persona che non ha la puttana in mezzo, è una persona un po' a modo, diciamo, sta molto nelle sue, però se lo frequenti è una persona che si diverte anche. Gianni di Chiaramonte, vediamo un po' se c'è ancora. Gianni di Chiaramonte, ci sei. quindi fammi sapere tu, perché cioè, a me sta bene, poi parliamo nel telefono e fammi sapere quant'è la storia. Abbiamo fatto chiamare anche a Claudio, non c'è problema, io sono in contatto con Claudio, ho fatto una telefonata e poi non c'è problema. Questo già ho messo d'accordo con lui, diciamo da voi o io. No, questo ne sono, l'importante è che quando me lo dai ci sia la tona. Sì, va bene. Contratto. Aspetta, contratto, non ho contratto. Contratto, ne è altra. Prima nel culo, Oggi è domani burro che ti si imbocchia, Sai come curava, ma ciò che devi fare quando avevo 2 anni, chi sei? Sì, la manna, hai 2, ne hai 3. Non ho più birro, tu ne hai 47 e ne hai 7. Allora rispettami, che sono anziano. Quanto anni hai tu? A proposito, 38. 39, quanto anni hai? 47. 38, interamente versati. Andate a te. 37 quasi, 37 anni, qua su qua. Ma non che un peso la prendemi, bobo. Solo in volta che ti sento, stai sempre mangiando, già lo grido. Ci avete una radio tutte e due allucinanti, veramente bello, tutte e due, anche Luca con l'MB4, ma non è l'MB4 che spinge, è quella radio che è una cannonata, sono tutte e due fatte bene, però quella di Luca spinge un po' di più, tanto, quindi rassegnati. Assolutamente, ma guarda che allora io sono rimasto piacevolmente colpito dalla monolazione che è riuscita a ottenere Falchetto con quell'MB+5 che ha, da paura, davvero ottima, poi lui ha cambiato anche la capsula, non so cosa ci abbia messo, che non ha fatto come me Luca che ha messo quella del Sirio, ma ha messo una capsula, non mi ricordo di quale microfono, però stamattina guarda, quando l'ho sentito era una fusilada. Abbiamo fatto ieri con Falchetto, le connessioni, c'è la capsula dell'M300, la capsula dell'M300 c'è, e vabbè, molta gente pasticcia, ma non sa neanche quello che sta facendo, quindi a voi tenetele poche parole, quando si danno i consigli e si fanno i lavori bisogna che continuano a ribadire, io non sono attemperato, non sono nessuno, ma l'esperienza mi ha insegnato tante cose, quindi se io dico mettici con la capsula e usa quello vuol dire che deve andare bene, poi se qualcuno si mette la mano nel culo forse riesce a uscire meglio, diversamente se tutto pasticciato, chiaro, parla Luca come esce, non ha mai toccato Luca quello, non sa manco dov'è il Michigin, lo lascia sempre così fermo, c'è una modulazione strepitosa quella radio, veramente. Ma questo per chi vuole intendere intenda e chi non intenda è roulotte. Allora qua io praticamente ho messo una capsula di telefono, ne ho provato tante perché i telefoni ne ho avuto solo 5 o 6, li ho smontati, però l'unica capsula che va bene è di un telefono rosso, se non sbaglio, non è di quelli bianchi, io ho messo una capsula lì e un bombo. Perché quella che c'era prima, quando me l'ha dato a Talino, ce l'ho ancora con la capsula lì, solo che mi è saltata la saldatura. Ho dovuto fare un casino qua. La mazza l'ho presa attorno alla capsula. Gli ho passato il filo, saldato, funzionava lo stesso, però non è come andava prima. Questa volta qua va bene, e lascio questa. Ma gli hai tolto l'anello d'acciaio che c'aveva? Qua non c'è niente, tanto, questo microfono. Quello me l'ha fatto da Talino, era tutto riverniciato, mancava, insomma, era diciamo un relitto, ecco, era un po', sai, un po' fatta cerca di stare, ecco, diciamo così. Me l'ha regalato uno Claudio nuovo, mi scatto, cosa ho fatto? Io ho preso, da quello nuovo l'ho attaccato tutto il circuito, no? L'ho messo in quello vecchio. E quello nuovo ho messo quello vecchio mio, cioè quello modificato, perciò ho fatto il microfono nuovo, solo che c'è il circuito modificato vecchio, se sono questi mi trovano in testa, tu dirai, vabbè, che te la puoi di mani lunghi, però lo dico, funziona bene. E invece quello là, che gli ho messo tutto il circuito nuovo, l'ho regalato a mia cognata, che ce l'ha sempre, però non lo sta più usando. Ma ce lo portiamo una volta? se è calmo, ma con Luca già ne abbiamo fatto un po' di esperimenti, lo capisco. Mi dico se è mezclato. Datemi in canale, va. Poi già organizziamo, andiamo, facciamo una bevuta insieme. Tu e Claudio. Sarà la macchina che ha la possibilità di salire in tre persone. Datemi in canale un po' di soldi, perché io senza soldi non mi usano, anche se non mi fa pagare niente. Ah, senti il guasto, però non mi qua, posso fare una volta e poi mi scuccio. Cioè, prendo i soldi in tasca, grazie anche mettermi la mano in tasca e pagare. Poi sono fatto così, non è più forte, e poi cosa lo sa? Lo sa, ma tutti i mi dicono, non me la putto, e mi rimarrà sempre tu ogni volta. Quindi prendeva un pacco di soldi, ma lo devo dire sempre, dicevo, cosa cazzo se li prendi? Cazzo da pure all'altri, cazzo da tu, giro tu, giro tu, fai pagare anche gli altri, perché gli altri sicuramente ce li hanno i soldi in tasca, ma ci parlava sempre Edu. Quindi non va bene, io non sono d'accordo. Parla bene che si in faccia protetta, ma guarda che questo qua invece, come fa il contrario, non paga mai. E non abbiamo tempo di seguarlo. Guardi, quelli ti vecchi, anzi, che ti vedono, sentimi un attimino, a parte gli scherzi, io non capisco perché con me è il contrario, non so perché, vedi, claro, adesso te lo devo dire sinceramente, però qualche volta portateli il soldine. No, questo rimuove di tutto. Guarda, tu mi puoi dire, rompi i coglioni, che fa il coglione, poppa, isu, oh no, io ho sempre detto, sia, cioè, lui non dà avanti a me, ho sempre parlato di lui, anche non dà avanti, anche se mi frequenta adesso, l'ho sempre vantato, sempre, ha diritto, mi cala Claudio, frequenta, rompi i coglioni, l'ho sempre detto, e ho caso una giubuca di luci, poi vedi, qua siamo un di più grandetti, perché mi può essere fatto, io ho fatto i 50 anni. Ma sei caduto dalla sedia? No, stavo aspettando la tua risposta. Evidentemente ti comporti male solo con me, buh. Non c'è problema, io sono fatto così. Lu, mi è servito di lezione, forse in quel periodo lì che stavo molto attaccato qui e là, riprendere, fare, tira e molla, adesso non mi frega più niente nessuno. L'unica cosa che mi dà fastidio è che ogni volta che siamo in QSO, devi sempre tra anche l'uno, dà un controllo. Quando una radio sta facendo bene, si lascia e basta. Non devi stare lì a rompere le palle sempre a chiedere il controllo. Tutto lì. Per il resto, tutto va bene, tutto procede bene. Io se devo vantare una radio, l'ho sempre vantata, se devo dire che non funziona, dico che non funziona. E se devo dire che mi sono rotto le palle di questi controlli, lo dico apertamente. Non fate niente, vuoi entrare a domandare controllo, ma vai e fatti controllare dal dottore. E comunque, quante volte siamo usciti qua? Noi? Quante volte? 3, 4. Ecco, sono riuscito l'ultima volta a pagare un Campari con lui e siamo andati a cena fuori, ti dico questo, più di una volta. L'ultima volta siamo andati a berci un Campari e sono riuscito a pagare. Ascolta, ma lo fai conoscere a casa, ma la sua buffone è nervosa. Se no ti mandi il toglio un lu, stiamo provando assieme. Bevendo per prendo, perché lui sapeva che io dovevo rientrare a casa, no? Mi fa, lui, io vieni con noi. E allora, io, lui è più un certo. Ma che cazzo mi sono richiedi? Ma io non ti preoccupa. E però che tu possa andare a casa. Ma questa ricetta magna da lì al... c'è la carica, ma come si chiama al veliero, no? Chi si chiama là? Mi dico, quattro alberghiere, boh, quattro alberghiere, ristorante, boh. Ma io sono portato lì a mangiare, io, lui e il lucetto. Ti ho detto tutto, ti vai a cambiare da 40 anni, in chi? Cosa c'hai tu oggi? Tu lo faccio, perché? Perché ti sento a pompa. E appunto, cosa fa, santo? Diciamo, sono un po' contento, caso lo sa. Diciamo che prima un po' a terra sono più contento, la casa sa, io sa, io lui mi riferisco, cioè, gli dico tutto, ecco, cosa dico, la casa, guarda che, appunto, ma sono contento, la qua, io gli dico tutto, non ho problemi, perché Claudio per me è un fratello. Vabbè, sono contento, Oia, sembrate fratelli gemelli, sembrate. E lo puoi dire forte, e lo puoi dire forte. No, per persona che con tanti problemi che può avere ha sempre dimostrato di essere una persona grande, capito? Non ha mai dimostrato di essere un qualcuno qua, sempre all'altezza con tutti e di tutti, sempre, volevo dire perché è così. Inizialmente la prima volta che siamo conosciuti siamo un po' attaccati, no? Poi c'è stato proprio un attaccamento veramente alla grande. Conosco tutti i fratelli, la madre, tutti, tutti, tranne uno che non lo conosco perché non l'ho mai visto, no, non ce n'è per nessuno, volevo dire. E soprattutto fa tanti tanti sacrifici quando c'è la possibilità di farli, quando non c'è la possibilità di farli se ne sta tranquillo e sereno senza rompere le palle a nessuno, a differenza di tanta altra gente, capito? Ti ho detto tutto. Vabbè Anto, tu sei benissimo, l'ultima volta che sono uscito in pantaloncini e quindi mi hai fregato, perché altrimenti non pagavi neanche quel campari. Non la mettere a marranina perché già lo sai come finisce. Comunque, visto che vi state incensando l'uno con l'altro a vicenda e non voglio rovinare questi Lillio con la mia presenza, vi lascio da soli, fatevi, non è il caso di dirlo, i complimenti l'uno con l'altro e vado a ricevere gli ospiti. Fate da bravi però, fate da bravi, parlatemi, Luca, parla bene, parla bene. Non ci conosciamo ancora noi, anzi, io un po' ci siamo calmati. No, di solito. No, vabbè, niente, non ho problemi ormai. Siamo un po' persi di vista, questo lo devo dire. Vabbè, lui prima, comunque. Ci vediamo molto spesso, non è quello il problema. Raccontagli la mangiata di carne lì da Luigi Vulcano o Clan. Vai, Emilia Tavona. Mangiato di carne, la buttata è maggiovato di carne. Ne mi dà due, magari quattro, non più non ci c'ha due, ma infatti io non sono rientrato. C'ho un mal di testa, infatti ma sono andato in quel, vabbè, subito nel randaggio in chi, ma non sapevo di andare. Poi c'era gente che conoscevo anche. E mi sono fermato lì, ma non ho toccato più niente. Prendendo l'aria fresca, ecco. E poi me ne sono rientrato a casa. Ma non... quell'attimo lì non potevo rientrare. Chi era... no, ero troppo... c'ho un cerchione in testa. Cerchione? Ui, ui, ui. Cisciu, cisciu. Ma perché... stavamo... perlomeno io mischiato, qui non essendo abituato, già lo sai, se bevo solo io. Cosa bevevo, perché adesso non fa neanche più bevendo. Avendo il bassotto di via Pascoli era prima di Rabotto, adesso appena sono qua a lui. Sono finiti i giochi, non esco più, sono sempre a casa, lavoro a casa e basta. Sono un anno e mezzo che non ci scendo via Pascoli. Anzi, bugia mia, sono rientrato due domeniche fa da... ho fatto il giro da sotto della WD, mi sono fermato un attimino in garage a vedere se Giancarlo aveva portato via quella Mercedes che c'era, che li hanno sequestrata, però non li avevano sequestrata quando erano via Pascoli, mi ha chiesto la cortesia se c'era fermo amministrativo, se la potevo mettere dentro. Raggio fatta morì e mi pare da un anno, capisco, io non ci vado spesso perché non c'è più niente, ma c'è tutto qua. E quindi ho visto che c'era ancora, e avevo già telefonato, mi ha detto che questa, forse la prossima settimana la portano via con caratteristi. Vabbè, così da una pulita lì e basta, per rimanere sempre chiuso, non me ne frega niente. Però per dirti da tanto che non scendo via a Pasqua. Ho sentito Walter l'altro giorno, un meccanico. Infatti mi ha invitato, mi ha detto, guarda, se riete presto c'è uno spuntino di un garage. Ho detto, ti ringrazio, ma non è periodo di spuntino. Sono impegnato al lavoro e voglio stare con la testa lucida, sana e tranquilla. E anche il baracchino, il comportamento è diverso, perché alla fin fine, come tu ben sai, quando c'è qualche bicchiere di troppo, santoni, fai, e quindi... infatti, da quel dì sono sempre tranquillo e sereno, anche la radio non mi ha fatto più nulla di sciù. Ripeto, non che mi sembra fastidio. esempio, perché anche se non c'è dialogo con alcune persone, tutti hanno il diritto di andare e fare quello che le pare le piace, giustamente, ma non è giusto che continuano a disturbarci con la portante e poi ci scanniamo tra di noi, perché non è assolutamente vero. Io la penso così, pure ognuno può dire quello che vuole, contenire non è vero, però di bugiarlo, ma non è assolutamente così. È giusto che tutti abbiano le amicizie e che facciano quello che le pare le piace, e però è anche giusto che tutti devono essere lasciati senza pace, senza stare con gelosie uno con l'altro, e basta. Vabbè, pazienza, va bene così. L'importante è che ognuno abbia il buon senso e che se ne stia tranquillo e sereno senza cercare a nessuno. L'importante è mantenere a tutti, anche stasera stavo ascoltando e c'era portante, non si riesce a capire chi è, cosa vuole, perché non capisco, non connetto veramente. Saranno sempre là. Ecco, c'è la vita reale, non più male, ci sono sempre. La vita reale, figuriamoci, frequenta e figuriamoci via lette, là. Via lette, ci sono sempre, è inutile che stiamo lì a girare, ci dobbiamo abituare, ecco, dai. Poi se tutti la. Se non ci fanno parlare. Torniamo al metro, là. Tanto mi ricordo di nuovo quella questione là. Poi mi dirai tu cosa prendi, come si tocca. Capisci tu? Capisci dal volo, la ricopro comunque sia. Perché così faccio ascolto anche. Ehi, avanti già di Chiaramonte, poi dico una cosa, lo aspetto. Avanti già. Sentiamo dopo, ti saluto anche Luca, sicuramente già l'hai sentito. Ci sentiamo dopo, già intanto anch'io troppo vado a mangiare, dai. Avanti Luca. Ciao Gianni, si chiama, così è. Ehi, è Gianni di Chiaramonte. Ciao Gianni, se mi ascolti, tanto da basso, ti metto al quaderno, buona serata e niente, alla prossima, ciao. E anch'io Micla, 10 minuti anche. Ti saluto che sto passando a prendermi. Stavo mangiando un panino, un mega panino. Se continuo così divento una parte di ferro. Se non mi vedi non mi riconosci da quando ero via a Pascoli. Una dico 10 kg. Alla grande, sono ritornato al peso forma. Adesso appena mi passa questo mal che ho una piatrite bruttissima. Sto aspettando che rientri l'ortopedico per fare delle filtrazioni, dopodiché riprendo in palestra la grande e via. No, sto benissimo, come fisico sto benissimo, e i dolori che ho a questa spalla allucinante. No, lui sai qual è il problema, che non va bene, anche perché questa portante continua a insistere sempre con le stesse persone, e non va bene, perché io anche quando non ci sono in ascolto. E che ci sia un quesito sul 21, che ci sia un quesito sul 10, nessuno sta rompendo le balle, perché questo deve entrare, mettere la portante, disturbare, coinvolgere un sacco di persone qui e là? Sì, ragazza, mi dice bidet, Jeremy, perché così, no? Come si faceva i tempi che furono? E che lascia viva, cioè nessuno ti sta cercando, nessuno sta facendo niente. Dico, Rabonero 21, Rabonero 10, Rabonero 21, Rabonero 10. Cioè perché? Qual è lo scopo vero di questa cosa? Per farsi bisticciare tra di noi o per fare che cosa? Non lo so, capite? A me sinceramente non mi tocca manco Rubero, perché ha un segnale, a volte sì ce l'ha alto, a volte ce l'ha basso, ma in trasmissione me lo mangio nudo e crudo, la ricezione la mette con i segnali bassi, capito? La mette con, cazzo, lo sai, no? Prima mi cazzavo, se ti ricordi, ma non è quella più niente. Infatti, se è vero, la cosa è fattibile, si può fare due chiacchiere in tranquillità, ma venga. Altrimenti non so che cosa faccio io, no? Ma non lo fare, adesso lo faccio. Ho il computer, ho omicidi, ho voglia di parlare, ho voglia di mettere musica, ho voglia di scrivere, ci mettono, ci divertiamo lo stesso, non ho problemi. Poi non... Ripeto, se è così, fa due chiacchiere tra di noi, va bene, in tranquillità, senza rompimenti di scatola di nessuno, mi sta bene, altrimenti no, tipo l'altra volta. Me ne sono fatti due chiacchiere con voi, tranquilli, tranquilli. Se vogliamo, ci mettiamo d'accordo, siamo più furbi noi, e poi vediamo se riusciamo a trovare la persona che mette la portata, e poi gli faremo fare tutte le figure. Qualsiasi persona che non interessa, quasi babbo Natale, ma di no, non mi sta dicendo male, io è ricco, non mi interessa, tutte le figure però lo stesso. Claudio, ehi, è Massimiliano. Comunque ti dico una cosa, questa persona entra sia nel canale 10 sia nel canale 21, entra in tutti e due i canali. Infatti quello che stavo dicendo, Massimiliano, perché? Cioè non capisco, perché uno deve avere il diritto? Ma sai cosa sta succedendo? Anzi, cosa stava succedendo? Forse abbiamo un po' capito che non siamo noi l'attrito della cosa, ed è fastidioso, perché questo non è bastardo, mette la portante, e poi cazzo ci bisticciamo tra di noi. Seguito, hai un pregio qui e là, non va bene, perché ti ripeto, da parte mia io ascolto moltissimo, anche quando non ci sono, magari che sono arrivato a casa, accendo la radio, seguo e sento, non va bene, cazzo, non va bene, perché metti discordia tra i gruppi che non la devono avere. Ma la cosa che mi dispiace di più è che si sta ripopolando tantissimo la frequenza, sta entrando tantissima gente, e vedendo queste cose come vecchi tempi, non fa, capito? Non fa, lascia perdere il portatore, se che so in tre o quattro che parlano, ma a Sassari siamo già tanti, la gente sta riaccendendo la radio, l'altro giorno avevamo una ventina, capito? Tra divisi, tra il 21 e il 10, è giusto anche così, per carità di Dio, io sono contentissimo. L'importante è che non ci siano queste importanti, queste rotture di balle, perché non fanno altro che mettere zizzania tra gruppi che non hanno nessun problema, capito? Io ho capito, questo non è molto importante, che non ho capito, claro, io ci ho capito. Cosa che ti volevo dire? Ma tu sei accennato? No, io sto aspettando, credo tra 10 minuti o 4 ore sia pronto, perché non si vede. No, ho visto la figlia mia, adesso mi sono affiancato, mi ha chiesto, ma chi c'è in radio? Volevo venire a me la tua stazione, capito? Ma adesso gli ho detto che sta avvicinando, gli ho detto non è ora di andare sulla parte. 10 minuti ci sono, non è un problema. Non mi vi rubiate la mano, non è quello il problema. Se siete insieme che state andando su dove sono io, potete anche avvicinarvi 10 minuti, non è un problema. Positivo, aspetta, io che ti faccio stare subito. Piccolo Lugarie, questa è la cosa che mi dà un po' più alle scatole, perché deve essere così. Chi giustamente ha il diritto di farsi i fatti suoi, parlare con chi vuole, è un diritto sacrosanto, per carità, non ci sono parole da aggiungere. E non va bene che questo deficiente disturbi solo nel canale 10 e nel canale 21. Qualche volta l'ho sentito nel 45, anche la portante, qualche volta forse eravamo con Massimiliano o Luigi, ma al più lui si attacca sempre al 21 al 10, al 21 al 10, quindi dico io, c'è qualcosa che non va, chi sei, cosa vuoi, presentati, ti abbiamo fatto qualcosa, vuoi che non parliamo, non lo so. Il problema è lì, la gente se ne va, perché Antonio Romeo 1, che è una persona di vecchia data e ci conosciamo da ragazzini, mi ha detto io sono disopportante e non c'entro, capito, dispiace, ma si invia. Oh, al volo, vediamo se puoi provare quella radiolina, passiamo al volo, va. Passa, non vedo niente, perché l'ho rimesso a posto, gliela smonto, adesso gliela porto io nei tardi, se ci siete più tardi va bene. Cioè facciamo due chiacchiere, altrimenti la funziona. Ciao Cate Massimiliano, ciao qua, ciao Cantonio, sicuramente sarò all'ascolto. A più tardi a domani, ciao, ciao, ciao. Ciao Lugarie, un abbraccio grande, mi raccomando, io sono su in montagna, già lo sai. D'inverno non ti dico niente perché c'è freddo, ma puoi anche salire, come dici, io sono sempre a casa, ciao. Ehi, a tanto mi approfitto, lo farò un salto, dai, tranquillo, non ti prometto niente, ma lo faccio un salto, tranquillo, ciao. Luca, no, ci spieghiamo, ti saluto. Prima mi faccio un attimo, una mannaggia tua. Ma come c'hai? Mi sei pacchetto di tutto, quindi sei. Ma di fuori non sono io. Signora Radio, bubu. Lo so mettere qua, poi faccio, non ho altro, scappa. Ma dico, la radio spacca mutande. Positivo, ora, positivo. Qua proprio spacco di cose, guarda, di puro. Spacca, te la ti spacca. E poi insomma. Cosa mi spacca? Ma ci vediamo. Figurati quando partiva da Alghero era sempre non vedete, no? E io lo sportello. Come già c'è la ricezione qua però. Vabbè, ma la trasmissione vuol dire che tanto però. Se non c'è trasmissione, ricezione, luta. Ma un bel forte quello andaccio. È un bel forte, dai. Ok. Dai che mi metto la maglietta, muoviti, sono qua. Ma io preparo l'acqua fresca. Non ho l'acqua fresca io, non c'ho niente a bere. Male fatto, sono tre colpi. Ciao. Ciao. Massimiliano, un bambino, sono venuti a trovarmi. Sono Zingaro, qui sì. Zingaro, perché ci sono... Ah, cosa, no? Oh, sembra così, però al pari tuo, perché io amo talmente tanto la radio che non ci posso, che non posso assentarmi più di tanto. Ho degli ospiti a casa e poi ogni tanto vengo qua e becco. Non sentendo nessuno sul 10, sono andato cordialmente a salutare gli amici della città di ferro, capito? Mamma mia, ui, ma è già ti conto, non ti preoccupi. Vabbè, a telefonare cosa dici, no? Va bene. Vabbè, sono all'alghiere. Lascia perdere che voglio starmene sereno io con la radio. Insomma, metto un nuovo lucchetto e si abbiglia a luci, non ho problemi. Ti ho fatto una battuta, ti ho mai capito. Hai detto l'altro giorno che ci avesse sempre gente, è 10, ma quando chiamano bisogna rispondere. Però è già la seconda volta che ti pisi come gli altri canali. Quindi alla terza sei bastonato forte. Vabbè, avvocato, te l'ho detto, mica ti devi impegnare, ma non uscino, ti devi impegnare veramente, non ce la fai. Te l'ho detto, la mia amicizia nei tuoi confronti è incondizionata, quindi prima di brigare con me, guarda, me ne devi scendere, non antenna di più, non ce la fai. Intanto ti ho pizzicato due volte già pure, la terza te lo scrivo, te lo mando per iscritto. Va bene, no, io sono sempre qua, non mi sono mosso. Ho fatto vedere il funzionamento di alcune radio a Massimiliano Gavino e basta, poi sono andati via, funzionato, ma sempre con le radio accese. Mi sembra aver sentito un telo barracuda che chiamava a Forchetto, se non ti risponde non c'è più nessuno. Pizzicato, mamma mia, ascolta, sono, non farò tra i so, a parte gli scherzi, c'ho sempre gente a casa, adesso, se rientri fra una ventina di minuti è possibile che ci sia, se no domani aperitivo in Piazza dei Segni, anzi colazione, decidi tu, aiuto. Colazione, quando faccio colazione io tu ancora ti stai girando, guarda. Dove sette domani mattina faccio colazione a Piazza dei Segni e poi solito tra, quindi sarò a Sassari intorno alle 10:30-11 se ce la faccio. Spero di sì, spero di farcela, se ho pazienza, devo salire anche sul tetto e vedere di sistemare quell'altro cavo, se domani non c'è vento, e se no lasciamo stare così, non ci stanno problemi. Però se ti sei una mano non fischia. Vado, fai da bravo, però fai da bravo, cazzo, mamma mia, il militare avresti dovuto farlo. Vai, diciamo che vuoi fare da bravo, io sono bravo io. Perché quando mi dicono le cose a tutti quanti, sembra che stia sbagliando sempre io. Vai, diciamo che sentire gente a me. cioè faccio un fischio, ho detto, ma mentre l'ho acceso c'era un silenzio assoluto. Comunque, eravate lì in attesa di qualche preda. Non si chiamano pipistrelli, si chiamano zirulia. Io sono un ragazzo della radio, Antonio. Quindi entrate di giorno, non di notte. Buonanotte a tutti. Grazie, che ti serve la direzione, Antonio, così impari. Va bene, va bene. Già ti faccio compagnia domani, promesso. A parlare, non è a farle le cose. No. Ma, scusa, non c'è bisogno di metterti anche tu in mezzo. No, Antonio, non si scherza, è a passare buona festa, non entri così. Ho rischiato, non c'era nessuno, poi all'improvviso si sei entrato tu. Poi dopo un colpo è entrato Claudio, ho detto, ma che strano. A fischiare in piazza, come si deve dire. Ciao Lello, dove sei andato stasera? Niente, prima ho portato la mia bambina giù a giocare alla festa che c'era giù a musica, veramente simpatica, alle 5, poi adesso sono salita a casa, ho preso la mia signora, a toppi, a quanto ci abbiamo fatto siamo scesi giù, abbiamo visto due piccoli spettacoli e poi siamo rientrati a casa. Adesso ci sono gli Ascra e Tamurita, ma Patrizia non ce la fa, siamo rientrati adesso. Quindi come stanno lei i contattati, vero? Bravo. Alleluia. Ui. Chi è che tu dici che non li ho contattati? A sesto senso. Mi dai 10 minuti un attimino che risolvo una situazione. A scorreggiare non c'è problema. Comunque ho trovato il capoccione della consulta giovanile, gli ho dato il mio numero di telefono perché io non, il mio telefono non ce l'avevo, ma ho preso per dargli il tuo e mi chiamava direttamente, poi in modo che io dassi io il tuo numero di telefono e poi ti arrangi tu. Io ho già fatto. Ma gli hai accennato la foto? Ah, per forza! Hai detto che è accennato? Hai detto che? Vai, cai, alto vai! Claudio! Ce l'ho perdere, che poi ha detto accennato. Sei zitto? Vai, cai, vai! Madonna immobile sul letto, ehi! Ti ho fatto che? Ma? Non ti posso dire niente, perché non voglio illudere nessuno, però qualche possibilità c'è. Perché sentito lei al tifo? Non direttamente, ma non ti voglio dire niente, Antone, perché non è il caso. Sì, per come stai parlando è andata male la storia. Assolutamente non ti ho detto quello. Cosa? Ti ho detto assolutamente non è andata male, però ti sto dicendo non ti voglio illudere, perché se poi non succede non voglio che te la prendi con me, punto. E cosa c'entri tu, scusami, eh? Non è che devi dare il popolo per meno. Ma io posso scherzare, però quando do una parola è quella, quindi siccome tu stai tranquillo, cioè tranquillo. Poi con quella persona, con quell'altra, cioè parlato. Con una persona alta, grande, gigantesca? Negativo, questa non so come, quella tipa, cioè parlato sì o no? Ci ha parlato, quella era una segretaria e ho fatto mi sono comportato, diciamo, come mi hai consigliato tu, né più né meno. Non è, stavo dicendo con quella dell'altra ditta. Ah, no, te l'ho detto che oggi non ce la faceva, domani neanche, perché gli ho detto guarda che ero disponibile sabato mattina o sabato sera, non c'era problema, ho detto che purtroppo non coincideva. Metto di chiamarla la prossima settimana, quando mi capita che ciò per dire tutta una tirata, 10 ore di fila, non stop, un esempio, finisco alle 4, io come finisco la chiamo, se lei è in zona e ha la possibilità di fare una chiacchierata, non c'è nessun problema, perché bisognava concedere, diciamo, il suo tempo materiale, in modo da fare questa chiacchierata e poi dice si vedeva com'era la storia. In base alle domande che lei mi fa, valuta un po' se io sono idoneo oppure no. In poche parole, l'ha fatto andare così. No, vabbè, dai, ma è normale che venga così, cioè non si può dare non si può fare delle promesse. Abbi pazienza un attimino, vedrai che le cose si risolvono comunque. Questo di carta. Sì, speranzoso, perché assolutamente hai visto comunque che ti ha chiamato per nome, poi io ho fatto il mio dovere, vediamo un attimino come evolve. Giustamente bisogna, beh, nel senso giustamente aspettare, ma lui ti dava, diciamo, una risposta o positiva o negativa, ma te la dava ugualmente, morale della favola. No, lui non mi ha dato né una risposta positiva né una risposta negativa, perché non si sbilanciano, comunque stai tranquillo. Sorpresa, aspettare sì oppure, diciamo, là non, come ti posso spiegare, non c'è un sì o un no, non te lo daranno mai alla fine secondo come gira. Antonio, che non si vogliono esporre, perché vorrebbero evitare che magari se poi non ti chiamano, come vorrei evitarlo io, poi sai, una delusione è peggiore di una falsa promessa. Ho capito, va bene. Importante provarci, dai. Ma in realtà non è che ci fermiamo qua, stai tranquillo. Va bene. E oggi non siamo ancora da nessuna parte. Scusami, ho anche copiato, avanti. Ecco, se oggi non sei andato da nessuna parte, ho detto. Oggi ero a Platamona, dopodiché sono rientrato e sono stato qua. Esattamente, beh, ce n'era persone in modulazione, sì? Sì, assolutamente. Però preparatevi per la settimana prossima, perché a metà facciamo quella riunione e lunedì c'è un appuntamento per concludere il tutto, quindi siamo più che attivi. Vi tolgo l'alluzio. Va bene, dai, almeno iniziamo a fare qualcosa di nuovo. E in punto di ritrovo? Il ritrovo credo che sia altro. Al bar? No, a Tarita. Non mi chiedo tutti, no. Io sono sottopondo la signora, salutamela. Buonasera. Cava Gava, ti ringrazio. E te cosa mi racconti? Ti racconto, guarda, qua c'è la stanza piena di ospiti in questo momento, perché mi sono trasferito da Moncalfone nella camera da letto e sto modulando con te, quindi mi hanno seguito tutti. Adesso sei in presenza di Tenia, salutano Antonella. Ciao. Dell'Antonio. Ciao. E di una specie di morto che è sul letto qua, che sta aspettando il medico legale. Saluta. È morto. Da tutti nel letto? No, non in quasi, nel senso matto, nel senso tutti nella camera da letto. Adesso non dire zozzeria che ci sono bambini che ti sentono, perché c'è anche Gigi. Ciao! E Dio mio, e comunque là, niente, buonasera a tutti. Buonasera a te. Quanto sono venuti per la stop? Tanto, a Porrado, non chiami che butti Zambieno. Ti voglio bene. Ci sentiamo fra un 20 minuti. Fate con comodo. Antonio! Antonio! Sveglia tu! Anto! Ti ho salutato, ma però non ho copiato il secondo passaggio. Ti ho detto, intanto buonasera, ben sentito, da questa parte Policina, ma già lo sai, numero due, ma ti pare non devo rispondere. In che senso di non rispondere? Non riesco a seguirti. E adesso spegni l'apparato. Per non disturbarti, capito? Ah, e perché stai facendo tu? Sì, ma è una tromba questa, attenzione. Ma perché? Tu cosa sei, trombettista? Un po' di tempo a questa parte mi stavo dilettando, poi non ho il tempo materiale, ogni tanto mi assillo così. Non ho imparato bene ancora, la verità. Ma tu sei Antonello Barracuda o Antonello Louis Armstrong? No, Louis Armstrong no, ma Miles Davis sì. Miles Davis, davvero? Ma tanto, io ho almeno una 65 CD, me ne mancano altri 100 per avere la collezione. Però all'epoca, ripeto, avevo la possibilità, adesso tocca aspettare. Se no li avrei avuti quasi tutti, e io lo amo Miles. Patrizia, lo sa che lo ami? Ti freghi? Eh? Il passaggio non l'ho copiato bene. Guarda che stai parlando con me, non stai parlando con Antonio, non te ne faccio di supercazzole io. Sai, ti parlo dopo. Non è che certe cose per transitività si passano, no? No. Ho detto, ma Patrizia lo sa che tu ami Miles. Sì, Patrizia lo sa, infatti lui si sta sulle palle, non riesce a digerire il jazz, Patrizia. No, no, ti spiego perché. Perché noi donne devi sapere che possiamo competere con un'altra donna, perché lì non ci sono limiti. Ma non possiamo competere con un uomo, lì i limiti ci sono. Quella è veramente ragione. E vabbè, cerchiamo di adattarci. No, della serie, se ti piace un certo tipo di gusto, vai. Non lascia perdere, se la ricchione non è proprio il problema, piace la sua musica. Fai da bravo! In un senso pulito, e attenzione, certo che ha solamente le orecchie grandi, tutto lì. Fai due volte da bravo! Mi senti in compagnia alla fine, dai. Va bene, volevo solo giusto farti un salutivo perché sentivo che stavi suonando la tromba. Dai, ci sentiamo alle prossime, buon 144 quando lo fai e se lo fai, e a presto. Hai cambiato al 100. Buonanotte. Anche a te sogni d'oro.